Europa 24. Benvenuti ad Europa 24. In apertura le parole di Mario Draghi da Francoforte. L'indice PMI dell'Eurozona suggerisce che una ripresa più forte è improbabile nei prossimi mesi, con i nuovi ordini in calo per la prima volta dal luglio 2013. La situazione dell'inflazione nell'Eurozona è diventata sempre più difficile, ha detto ancora il presidente della Banca Centrale Europea, che assicura che l'istituto di Francoforte farà tutto quello che dovrà fare per alzare l'inflazione e le aspettative di inflazione il più velocemente possibile. La Banca Centrale Europea è impegnata a ricalibrare le dimensioni, il ritmo e la composizione degli acquisti di titoli, se necessario, per rispettare il proprio mandato. Sì al limite per i bonus dei banchieri. Il parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea conferma la necessità di non tornare ai tempi della finanza selvaggia. Un duro colpo per la Gran Bretagna nel suo ormai tormentato rapporto con l'Unione Europea. L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Comunitaria ha dato parere negativo alla richiesta di Londra di annullare le disposizioni contenute nel pacchetto sui requisiti patrimoniali adottato sull'onda della recente crisi finanziaria. Disposizioni che obbligano, tra le altre cose, a stabilire un rapporto inderogabile tra la remunerazione fissa e la variabile dei compensi dei banchieri. I bonus non possono superare il 100% del loro stipendio base o il 200% qualora gli azionisti lo consentano. Una misura mai digerita da Londra, che vede potenziali rischi competitivi per la potente City. La normativa crea incentivi perversi che spingono a incrementare la parte fissa dello stipendio, ha sostenuto il cancelliere dello scacchiere George Osborne. Replica l'avvocato generale della Corte, Jaap Skinen. Stabilire un rapporto diretto tra stipendi e limite ai bonus non equivale a un tetto ai bonus stessi, dice, poiché non vi è alcun tetto massimo ai salari. Sebbene l'opinione dell'avvocato generale non sia vincolante per il giudizio finale della Corte Europea previsto il prossimo anno, raramente viene capovolta. Il canale della Manica si allarga dunque ancora un po' nell'infinita serie di scontri politici sull'asse Londra-Bruxelles. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quello dei crimini ambientali è una minaccia emergente in Europa alla quale prestare massima attenzione, così la presidente di Eurojust, Michelle Koninsk, nel presentare un rapporto dell'organismo europeo sull'argomento. Si tratta di un fenomeno sottostimato che crea grande profitto, con un basso rischio di arrivare a processo e pene non sufficientemente dissuasive, spiega Koninsk, che sottolinea come le mafie siano dietro a quello internazionale e per questo la necessità di un approccio coordinato. Ci sono regioni europee in cui continuiamo a pompare soldi da anni e non se ne vedono i risultati, ha detto il commissario europeo alle politiche regionali Corina Cretu. Questo accade anche in alcune regioni d'Italia del Sud. Calabria e Campania non hanno ancora inviato i loro piani per la programmazione 2014-2020. A Firenze da oggi a domenica EUNews, il primo giornale italiano sull'Unione Europea con sede a Bruxelles, organizza la tavola rotonda sulla governance europea in collaborazione con la presidenza italiana del Consiglio Europeo e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Fra gli ospiti Pierre Moscovici, commissario europeo, Enrico Morando, viceministro dell'economia, Daniel Gross, direttore del CEPS. Ad aprire i lavori sarà Simona Bonafè, eurodeputata del Partito Democratico. Ma per parlare delle sfide che ha davanti l'Europa, l'Europa è una grande opportunità, l'Europa già oggi esiste, perché già oggi qui a Bruxelles noi decidiamo più del 60% delle politiche nazionali. Noi a Firenze discuteremo di tutto questo in questi giorni, io peraltro ho anche il piacere di aprire il convegno con i ragazzi, con i giovani, dove discuteremo di questi temi. Ci saranno tanti spunti interessanti, l'idea è quella di dare forza e prospettiva a un lavoro che in Europa è già in corso e di dare prospettiva al lavoro in corso proprio sui temi, diciamo, fondamentali per rilanciare il progetto Europa. È tutto, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.